L'autrice e attrice Clara Galante con noi per parlare del suo nuovo lavoro, Le Imperdonabili. Intanto Clara, ben ritrovata. Grazie, Federico. E ben ritrovato a tutti. Senti, ci parli un po' di questo nuovo lavoro, di cosa si parla? Allora, ben ritrovati a tutti, nel senso che sono già stata ospite tua con un altro mio lavoro, sono Certo, stata certo. finita qualche tempo fa e ti ringrazio perché anche lì c'è un tema importante. Io sempre più negli ultimi anni lavoro per testimonianze, diciamo, no? Che se quello era una testimonianza di un fatto realmente accaduto intorno al tema della violenza contro le donne, stavolta mi sono imbarcata in un personaggio grandissimo, che se non fosse morta Hetty Hillesum, di lei parlo, oggi sarebbe, credo, una delle più grandi intellettuali del Novecento. È morta ad Auschwitz nel 1943 e faceva parte, era una privilegiata, un'ebrea privilegiata, diciamo, tra virgolette, perché faceva parte del consiglio ebraico e quindi aveva l'opportunità di occuparsi del censimento degli ebrei, quindi entrava ed usciva specialmente da un campo, Westerbork, e pian piano si rese conto, e questo anche attraverso i suoi diari, che le cose naturalmente più andavano avanti, più peggioravano, più non erano chiare, e più lei nella sua introspezione, nel suo viaggio interiore di grande vitalità, decide di voler vivere il destino del suo popolo e il suo individuale con grande vitalità, non, diciamo, sottraendosi a nulla, diventando quasi una cronista, non degli orrori. Lei dice: non voglio essere una cronista degli orrori, ma voglio essere una cronista della vita tutta. Quindi trovando la bellezza anche ovunque, ecco, anche in un fiore al di là del filo spinato. Sì. Questo è un lavoro che nasce nel 2017, per la giornata della memoria del 2017, nasce sotto forma di un melologo musicato da Silvia Colasanti. Abbiamo debuttato in tre importanti teatri con un'orchestra, un quartetto di archi, un direttore e quattro cantanti, e più io, con la regia di Alessio Pizzek sempre. Abbiamo debuttato al Rossini di Pesaro, poi ad Ancona, al Teatro Sociale e al Lauro Rossi di Macerata, sotto questa forma, diciamo, di melologo musicale con cantanti e quindi strumenti dal vivo. E poi che è successo? È successo che sai, noi teatranti, quando mettiamo in piedi un lavoro e ci imbarchiamo in cose belle in cui crediamo, cerchiamo sempre di poter trovare altre occasioni, no? Per poterle testimoniare queste figure così importanti. Ma diciamo, tutto l'ensemble sarebbe costato, eravamo 10 persone, quindi non si poteva fare. Di questi tempi in Italia sappiamo che è tutto molto difficile, no? E allora ho avuto l'idea di farne una elaborazione dove ci fosse una solo teatrale, con musiche invece registrate, e portarlo, insomma, cercare di portarlo in giro in modo più snello, più semplice, e questo ha funzionato. Infatti sto per partire per andare a Cracovia, proprio a due passi da Auschwitz, perché l'Istituto di Cultura Italiano, appunto a Cracovia, mi ospiterà in un teatro importante della città, il Teatro Novi, e col sostegno del Museo di Auschwitz andrò a recitare Le Imperdonabili, l'ultima lettera di Hetty Hillesum, che è appunto un testo che ho tratto da un'opera di Guido Barbieri e Silvia Colasanti, cioè dall'opera iniziale, facendone una solo teatrale, sempre con la regia di Alessio, col quale Alessio Pizza, col quale lavoro già da qualche anno, e stiamo per debuttare lì. Clara, facendo un passo indietro, come sei venuta a conoscenza di questa storia e come hai strutturato inizialmente il lavoro che prevedeva più persone coinvolte? Allora, come sono arrivata ad Etilesum? Ad Etilesum in effetti molti anni fa, nel senso che mi fu regalato da un amico questo libro dal titolo Diario 1941-1943 di Etilesum, edito da Adelphi, ed insomma è diventato uno dei libri più importanti della mia vita, che sta da anni sul mio comodino. Poi quando Guido Barbieri mi telefonò per annunciarmi che avrebbe voluto me in questo progetto, naturalmente ho fatto: ah, va bene, tutto torna, no? Sì. Che allora è nel mio, diciamo, nel mio cammino, nel mio destino, di occuparmi di questa figura, che per me è una figura molto passionale, veramente una giovane donna intelligente, naturalmente, ma di grande, con un'intelligenza particolare, un'intelligenza del cuore, direi, cioè proprio del centro di se stessa, che cerca in continuazione in ogni cosa che fa, anche nei disastri di cui si occuperà e di cui poi sarà vittima. Quindi, diciamo, ho preso la struttura che Guido Barbieri aveva inventato, diciamo, che fondamentalmente è in tre parti, è diviso in tre parti, no? In tre momenti questo assolo. Era diviso in tre momenti anche nella parte, diciamo, quando c'era la musica dal vivo. Cioè la prima parte è il tramonto, la seconda parte è la notte, la terza parte è l'alba. Questo di una giornata dell'ultimo giorno di Etty prima della partenza per Vesterborg, l'ultima partenza per Vesterborg. Quindi è come un ritrovarsi nella sua stanza e dover sintetizzare pensieri, cose, gesti, valigia da preparare, scelta di cose da portare. E nell'ambito di questo scorrere del tempo, che è un attimo ma anche un'infinità, no? Aspettare il tramonto, e poi la notte e poi l'alba, il momento in cui dovrà prendere l'ultimo treno per Vesterborg. Quindi è una serie di riflessioni che nascono dalle lettere. Scusa, dalle testimonianze, dal suo diario proprio, da quello, e immaginando proprio che queste si intreccino dentro questo racconto di cosa poter portare via in questo momento, sentendo dentro di lei che potrebbe essere l'ultimo, tra l'altro. Quindi potrebbe essere l'ultima volta che lei parte per Vesterborg, dove diciamo che altre volte si era trovata a partire perché lavorava appunto nel consiglio ebraico, no? Quindi andava e poi tornava con uno speciale permesso. Adesso però sente che potrebbe essere l'ultima volta perché la situazione degenera, perché ormai stanno togliendo i permessi a tutti, nessuno più potrà andarsene dal campo, tutto sta precipitando e quindi proprio in questo momento, con questa consapevolezza che nasce in questo periodo di tempo, no, proprio che si fa sempre più forte da questo tramonto a questa alba. Quindi ci sono dentro diciamo, i rami del suo diario, chiamiamolo così, come se il diario per me fosse l'enorme albero, no, che lei è poi in fondo, e ci sono, cioè, si innestano diversi rami, diversi momenti dei suoi diari, più appunto ecco, questo è importante. Abbiamo voluto inserire, come era, diciamo, in principio, no, anche nell'idea del melologo, ma in questo monologo anche, ho voluto mantenere ciò che era nell'idea prima, cioè quella di innestare insieme alle sue parole altre parole di altre imperdonabili, chiamiamole così, imperdonabili del Novecento. Per imperdonabile si intende, come diceva Cristina Campo, qualcosa che perdura nel tempo e qualcosa che è imperdonabile nel senso, sono tutte figure femminili che hanno sempre detto quello che pensavano. C'è Marina Tsvetaeva, c'è Cristina Campo, c'è Gertrud Kolmar, che è un'altra ebrea sempre morta, e scrittrici, sono tutte scrittrici, poetesse, che si sono sono battute in qualche modo per la loro, no, per mantenersi forte la loro libertà interiore. E quindi in un certo punto, in tre punti di questo testo, si innestano i versi di queste altre tre poetesse del Novecento, che appunto hanno avuto come loro obiettivo interiore sempre la libertà a qualsiasi costo. Clara, in chiusura, ci lasci i tuoi riferimenti web per saperne di più? Ma io ho una pagina Facebook e un evento, sempre Facebook, che è Le Imperdonabili, l'ultima lettera di Etty Hillesum, dove c'è scritto appunto tutta la scheda dello spettacolo, la regia di Alessio Pizzek, le musiche dalla memoria, nel senso che abbiamo usato in questa versione di monologo le musiche di autori, di compositori che hanno scritto proprio nei campi le musiche, quindi Pavel Haas, Victor Ullmann, Grundmann e Oliver Messiaen. Quindi la consulenza costume di Metella Gabboni. E poi c'è un'opera di Stan e Lex, che sono questi due artisti contemporanei che mi hanno diciamo omaggiata di questo trench che porto, no? Questo costume particolare, questo trench con cui lei parte, e con un'opera loro molto significativa, con un volto di donna bellissimo. E quindi simboleggiamo un po' tutte le donne, no? Che si battono per la vita, insomma, per riuscire anche nel dolore a mantenere un frammento di identità, di propria identità. Bene. Quindi c'è questa pagina che ti dicevo, Le Imperdonabili, l'ultima lettera di Etty Hillesum. E poi cosa posso dirti di più? Sarà naturalmente il 29 e il 30 gennaio, nell'ambito dei festeggiamenti, diciamo, della ricorrenza della memoria, appunto, della Shoah, e il 29 e il 30 a Cracovia, al Teatro Novi, con l'Istituto di Cultura Italiano che ci sostiene. Benissimo. Clara, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Federico, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao.